Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Buona domenica, bentornati ai Padri Eterni. Federico Taddia, Matteo Bussola. Ultima puntata dell'anno in questo 31 dicembre, ma siamo qua. È un periodo strano, no? Perché non sai bene se guardare indietro, se guardare in avanti in un giorno come questo, vero Matteo? Assolutamente, ma guarda, ma poi io devo dire che una delle ragioni per cui sono oggi infine molto felice di avere una famiglia è che sono infine sfuggito, e spero definitivamente, all'angoscia ancestrale del cosa fai l'ultimo. Ah, ecco, lo passi qui in radio. Che è una... per ora sì, dopo andrò a casa, c'ho tutto il cenone da preparare, eccetera, eccetera. Ma insomma, io sono sincero, non so te, ma insomma, io non farei di nuovo a cambio con auguri e baciare tutti e i petardi dal balcone e svegliarti poi col mal di testa a fianco di una tipa che a mezzanotte aveva una spumeggiante personalità, gli occhi verdi e al risveglio pare Ugo Pagliai. Quindi no. Evviva! Ma poi guarda, i figli crescono, dopo il problema dell'ultimo dell'anno è a che ora portarlo via, a che ora andarlo a riprendere, sai? Sì, tu metti quindi il dito sulla piaga. È la piaga che io vivo. Questo è Padri Eterni, un programma di papà, un programma che parla ai papà. Radio24.it è come sempre il nostro sito, da lì potrete scaricare il podcast ma ritrovare anche tutte le puntate precedenti. Quella di oggi sarà appunto una puntata particolare, una puntata di bilancio, ma una puntata anche di buoni propositi, se ancora i buoni propositi hanno senso. Però vogliamo iniziare con una storia. Forse non è la storia del 2017, ma è una storia che a noi è piaciuta molto. È una storia che ha come protagonisti tre fratelli, Riccardo di 20 anni, Pier Giovanni di 18, Edoardo di 10. Una storia il cui inizio è un inizio tragico, perché ci riporta a Rigopiana quello che è successo, ai tanti morti. E Riccardo, Edoardo e Pier Giovanni hanno perso il loro papà e la loro mamma, però qualche giorno fa i tre fratelli, i due più grandi, ma anche col sostegno del più piccolino, hanno deciso di riaprire la pizzeria che tanto il loro padre aveva voluto, che tanto la loro madre voleva, questa pizzeria che hanno riinaugurato proprio il giorno che sarebbe stato il giorno del compleanno del padre. E abbiamo il piacere di avere qua con noi Riccardo Di Carlo. Ciao Riccardo. Ciao. Ciao, grazie. Ciao Riccardo. Grazie per essere qua con Ciao. Noi. Ciao. Allora, credo che, insomma, è anche difficile parlarne perché, insomma, è una tragedia, c'è tanto dolore. Però è un modo per, credo, superare il dolore, un modo per vincere il dolore, un modo per andare oltre, no? Quello che vi ha spinto a riaprire quella pizzeria. Sì, ci siamo concentrati, abbiamo accantonato da subito il dolore, concentrandoci su quella che doveva essere la nostra rinascita. E finalmente, dopo 11 mesi, siamo riusciti a ripartire con la pizzeria. È un giorno molto importante, che è quello del compleanno di 50 anni di nostro padre. Insomma, vostro padre era lì con voi quel giorno, no? Sì, noi lavoriamo tutti insieme in pizzeria. Questa attività avviata 5 anni fa, in cui partecipava tutta la famiglia, quindi è un'attività di famiglia a 360 gradi. Il weekend eravamo tutti qui insieme a lavorare. Ma a me piace molto quest'idea di buon proposito, no? Come dicevamo, il proposito normalmente è una cosa che si pone in avanti, propositum quello vuol dire, invece, come dire, mettersi a fare le cose, no? Mettersi a sporcarsi le mani di farina, in questo caso, questo è il proposito migliore. Mi piace anche molto quest'idea di, che è sempre più rara, di proseguire un'attività che era dei nostri genitori. Insomma, credo che anche questa sia un'idea di futuro possibile e importante. La pizzeria ha riaperto a Loreto a Prutino, siamo in provincia di Pescara, e Riccardo, tutta la comunità si è molto stretta attorno a voi, ma proprio perché tuo padre era anche molto conosciuto, era una delle anime di questo paesino. Sì, mio padre, mia madre, Piero, Barbara, erano persone di piazza, vivevano il paese, erano attivi e quindi erano amati e stimati da tutti. noi con la riapertura un po' simboleggiamo ancora la loro presenza, loro con questa riapertura sono ancora qui con noi. Riccardo, tu sei il più grande dei tre fratelli, ti senti caricato di una responsabilità ancora maggiore? Sì, è una responsabilità che ho deciso di assumermi e per ora non me ne pento. Sono convinto insieme ai miei fratelli di quello che faccio e ho l'appoggio di questo paese che è fantastico. Riccardo, senti, leggevo che voi state cercando di aprire anche un altro locale, riaprire un altro locale a Penne. Riaprire, sì. Esattamente, ma i proprietari delle mura invece di, diciamo, di venirvi incontro vi stanno ponendo qualche difficoltà. Vuoi parlarci meglio di questa questione? Sì, abbiamo avuto dei problemi col proprietario che stiamo cercando di risolvere bonariamente. Qualora non riuscissimo... Oltre alla causa su Rigopiano, su quella delle responsabilità, insomma, ne dovrò fare un'altra anche col proprietario di questo locale, insomma. E Riccardo, come stanno venendo le pizze? Ottime, ottime. Immagino che siano quei momenti dove comunque i consigli di mamma e papà, no? Che magari quando ve li recitavano come una litania, anche magari sbuffando, erano una rottura, diciamo, adesso invece tornano, credo, come un piccolo tesoro. Sì, questo assolutamente sì, anche se durante questi 11 mesi non siamo stati assolutamente fermi, ma abbiamo intrapreso corsi, ci siamo... per fammi passare il termine, impratichiti. Certo, insomma, appunto, perché anche i buoni propositi vanno coltivati, serve lavoro, serve allenamento, serve testardaggine, la vostra motivazione era tanta, però non basta la motivazione, ci vuole anche proprio l'impegno. Ci vuole la continuità. Continuità, esatto, il giorno per giorno dove appunto metti le mani in pasta. E il più piccolo dei tre, anche lui viene a impastare ogni tanto? Ma lui viene a giocare con gli amichetti a fianco alla pizzeria. Però è un grande tifoso. Il laboratorio non ci entra. È un grande tifoso, vero? Della sì, della pizzeria. Sì. Sì, sì. Grazie davvero. Grazie davvero. Complimenti, in bocca al lupo. Insomma, è un bellissimo esempio. La forza, il coraggio, la costanza, l'amore. Sono queste, credo, le parole, sono questi gli ingredienti delle vostre pizze e lo hai testimoniato anche con le tue parole. Ciao e grazie, buon anno. A voi, grazie ciao, mille. Ciao, buone feste. Buone ciao. Padri eterni, padri eterni. Perché mi hai chiesto dei soldi se ne avevi già? Perché non avevo abbastanza, ora sì. Papà, questi sono 100 euro. Posso comprare un'ora del tuo tempo? Papà, può venire un'ora prima domani? Vorrei stare un po' con te. Acquistare un'ora del tempo. Papà, per favore, vieni un'ora prima, vieni da me. Figlie e figli che giustamente, no, chiedono cose e noi padri, Matteo, che siamo lì, che promettiamo... E soprattutto ci promettiamo, cioè perlomeno ci proviamo, no? Sì, diciamo che ci proviamo, ecco. Poi sul mantenere si sa che è sempre molto difficile, però dai, quantomeno apprezziamo lo sforzo. Tra l'altro, questi buoni propositi, insomma, a volte io li paleso almeno con i miei figli, poi non so se sia corretto o meno, però cerco di... Sì, di esprimere quali dove vedo margini di miglioramento, almeno nei miei confronti, che forse diventa anche un modo poi per chiedere a loro. Ma esprimi i tuoi margini di miglioramento o i loro? No, esprimi i miei, ci provo, insomma, mi metto un po' alla prova, però non so se sia una giusta strategia. Ma insomma, voglio dire, nel momento in cui si esprimono margini di miglioramento di chiunque siano, forse è sempre una buona cosa. Andiamo a capire come gestire questi buoni propositi. Lo facciamo con Alessandro Antonietti, che è direttore del servizio di psicologia dell'apprendimento e dell'educazione in età evolutiva dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Ho letto un suo bel articolo su questa spinta gentile per mantenere i buoni propositi e mi piaceva declinarli in chiave padre e figli. Buona domenica, Antonietti, benvenuto ai Padri Eterni. Bene, buona domenica a voi, saluti a tutti gli ascoltatori. Buona domenica. Allora, vanno gestiti questi buoni propositi? In che modo? Ci sono due possibilità, quella di fare affidamento alla propria forza di volontà, oppure cercare di trovare un aiuto nell'ambiente che ci sta attorno. E questa è un po' l'idea della cosiddetta spinta gentile. Questo termine tecnico, nudging, che potrebbe essere tradotto con spintarella, sì, è stato proprio introdotto da questo economista Richard Thaler, che è stato insignito del premio Nobel per l'economia giusto quest'anno, perché ha rilevato che nell'ambito delle politiche pubbliche i cittadini possono essere indotti ad avere comportamenti virtuosi se l'ambiente che li circonda dà degli inviti verso la direzione auspicata, e questo può anche essere applicato a livello individuale. Questo è, insomma, quindi anche il contesto aiuta i buoni propositi. Ma secondo lei intanto vanno palesati questi buoni propositi o è meglio tenerli dentro di sé? Ma come diceva prima lei, la esplicitazione a se stessi prima e poi anche agli altri è proprio una di queste strategie che dall'esterno ci facilitano nel mantenere i nostri impegni. Infatti è stato mostrato che se le persone, quando si propongono degli obiettivi, li dichiarano ai familiari, agli amici, poi prendono un impegno non soltanto con se stessi ma anche appunto con altre persone, e questo poi invita a perseguire gli obiettivi. Nel caso dei rapporti tra padri e figli, questo potrebbe essere declinato in termini di cercare ad esempio di prendere degli impegni e formulare dei propositi non soltanto a livello individuale ma anche magari insieme a qualche altra famiglia e ad altri genitori. Nella sigla il bambino reclamava l'attenzione e il tempo del papà. Però magari, ad esempio, individuare un'attività in cui si possa stare con il figlio, che possa essere svolta insieme ad altri genitori, è un modo per avere un obiettivo comune, e laddove magari poi io sono indotto a sgarrare, ci sono gli altri genitori che magari mi ricordano che abbiamo preso questo impegno e quindi con più facilità mantengo quanto promesso. Antonietti, guardi, io il giorno dell'anno che amo di più, e lo dichiaro oggi, 31 dicembre, è il 2 gennaio. È il 2 gennaio perché è il giorno dove finiscono i propositi per me e cominciano i chilometri. No, in fondo è dal 2 che parte sempre la dieta, che riprendi a lavorare, che pensi di ricominciare a fare footing. Il 2 è il giorno nel quale i fatti, tutto sommato, reclamano il posto dei progetti, no? E quindi mi piacciono questi suggerimenti che lei dà per costringersi a mantenere questi progetti, perché poi la difficoltà è sempre quella lì, no? Cioè, per noi un proposito è quasi più una scommessa che una promessa. Sì, sì, certo. Forse va bene da un certo lato formulare propositi ambiziosi, sì, però anche poi partire da piccole mete. Per dare un altro esempio, l'accompagnare i figli nello svolgimento dei compiti, interrogarli per le verifiche, è anche un altro dei modi con cui un genitore può stabilire, certo, una vicinanza con il figlio. Poi è chiaro che quando poi si torna magari la sera stanchi dal lavoro non è particolarmente piacevole dover investire del tempo in queste operazioni. Però, ad esempio, si potrebbe iniziare da individuare una materia, un tipo di attività del figlio che ha anche un interesse per noi, e magari vederla non soltanto come un dovere di accudimento nei confronti del figlio, ripassare insieme a lui i contenuti di quella disciplina in vista dell'interrogazione, della verifica, ma anche vederlo come un'occasione per noi di approfondire delle conoscenze, vedere oggi che cosa si insegna su quell'argomento, quindi vederlo un po' come una specie di occasione di autoformazione che ci è messa a disposizione. E allora, magari, se partiamo da qualche cosa che ci piace, ci incuriosisce, ci interessa, forse diventa anche un po' meno gravoso questo compito. Certo, queste sono insomma le spintarelle gentili, no? Che aiutarsi ad aiutare, fare in modo che questi buoni propositi poi abbiano che si possano concretizzare, si possano vedere, toccare con mano. Grazie davvero, Antonietti, buon 2018. Grazie, auguri a voi. Buone feste. Arrivederci. Grazie. Intanto grazie a mamma e papà per non aver mai fatto i miei compiti. Anche quando tornavo stanca la sera tardissimo dalla palestra, sapevo. Aprivo il diario e a testa china mi mettevo sui libri. Sapevo che nessuno si sarebbe accorto se mi fossi dimenticata di fare qualcosa, ma se avessi portato a casa un'insufficienza, allora sì. Ecco una prima grande forma di responsabilità per una bambina di 10-12 anni. Per me è stata fondamentale perché mi sentivo in dovere di fare qualcosa senza che nessuno me lo ordinasse. Ancora grazie per non aver mai screditato gli insegnanti davanti a me. Perché sì, incontriamo persone più o meno giuste lungo il percorso, noi atleti. Ma se non ci fidiamo di chi ci insegna, allora è finita ancor prima di cominciare. Dicembre, i buoni propositi, i bilanci, e questa parola grazie di cui un sacco di volte ci si dimentica, e ritorna questo grazie in questa lettera che abbiamo letto un piccolo stralcio, lettera scritta da Marta Pagnini, un'atleta, una campionessa, una ginnasta, lettera che ha scritto ai genitori per ringraziarli. Insomma, credo non ci sia bilancio più bello, vero Matteo? Beh, guarda, in questo tempo in cui spesso si sente, e mi ci metto dentro anch'io naturalmente, di padri che scrivono lettere ai figli, il fatto di vedere per una volta il contrario, cioè una figlia che sente l'esigenza, la necessità di scrivere ai propri genitori, la trovo una cosa magnifica. Tra l'altro, delle due cose che ha detto Marta, le trovo assolutamente a fuoco. Non screditare gli insegnanti, santo cielo. Quanti genitori dovrebbero tenere presente questa cosa? Ma soprattutto il fatto di che i genitori non l'aiutavano a fare i compiti, è lì quando scegli la via meno facile e insegni a sceglierla che si vede il vero proposito. Oggi una giudice internazionale, ex ginnasta, ha vinto l'oro nel concorso a squadre mondiali di Montpellier e due argenti, ha partecipato alle Olimpiadi di Londra nel 2012 ottenendo la medaglia di bronzo con la nazionale italiana. Diamo il benvenuto a Marta Pagnini. Ciao Marta. Buona domenica a voi, grazie della bellissima intro. Grazie a te. Marta, come mai questo desiderio, ma anche a distanza forse, no? di scrivere questa lettera a mamma e papà? Ma in realtà io ultimamente mi sto cimentando anche nella scrittura, tra le altre cose che avete anche citato voi, e tratto alcuni temi che mi stanno a cuore. Alcuni riguardano prettamente lo sport, l'aspetto della fatica, l'aspetto della paura, cosa si prova prima di entrare in pedana, prima di una grande prova. Altri sono temi quali la figura dell'allenatore, quella del genitore, che sono, diciamo, poi le persone che mi hanno accompagnato nei miei anni da ginnasta e che hanno in qualche modo segnato anche la mia personalità. 150 secondi, se non erro, è il nome del blog dove scrivi. Ok. E qui appunto hai scelto di ringraziare mamma e papà per quanto hanno fatto o per quanto non hanno fatto nel tuo accompagnarti a diventare campionessa. Entrambe le cose, perché come in tutti gli aspetti della vita c'è un dare e un prendere, no? Quindi trovare la giusta misura penso non sia facile. Quando siamo piccoli lo diamo per scontato, quando si cresce magari poi si analizza quello che ci è stato dato e quello che ci è stato tolto, e devo dire che trovare la giusta misura è un privilegio di pochi. Quindi io devo davvero ringraziare la mia famiglia per questo, perché hanno fatto un grosso lavoro e l'hanno fatto nella maniera corretta, sia quando ero a casa sia quando poi mi sono allontanata per allenarmi lontano, che forse ha reso il compito ancora più arduo. Marta, in questo tuo esercizio della scrittura, quanto ti è utile, se lo è stata, la disciplina sportiva, la determinazione, la capacità, mi verrebbe da dire, anche di riuscire a mantenere il fuoco della concentrazione costante? No, in realtà sono due mondi veramente diversi. Cioè, noi sportivi, o almeno parlo per la ginnastica ritmica, siamo abituati a usare il corpo, a sentirlo, a esprimerci attraverso i movimenti. Poi quando ci si trova ad analizzare le cose, a fare delle riflessioni, magari a cercare anche di tradurle in parole, in scrittura, quello che si è provato sulla pelle, non è facile. Quindi ci vuole un momento, è un momento secondo me che avviene successivamente e che è estremamente individuale, ma non è affatto facile, nel senso che un conto è sentire, percepire delle emozioni, un conto è poi saperle trascrivere. Certo. Marta, invece volevo chiederti una cosa relativamente a al tuo papà. Nella lettera scrivi: veniva a seguire le nostre gare truccato con la parrucca, faceva un gran baccano e ci dava una grande allegria. Ma ha fatto ridere perché probabilmente molte figlie si sarebbero quasi vergognate, no, di avere un papà così festoso a bordo pista. Dov'è il limite? Dov'è la giusta misura? No, beh, io ero orgogliosa di lui perché poi mio papà è una persona che nella vita è un avvocato, quindi è una persona estremamente composta e seria nel suo lavoro, però ha questo carattere molto esuberante, tra l'altro in grande contrasto con quello di mia mamma, che è una persona molto riflessiva e posata, e quindi facevano un bel contrasto anche in gara, perché alla fine lui portava il colore, lui si vanta di aver portato il tifo ultra anche a livello della ginnastica ritmica. Il famoso tifo ultra della ginnastica. Esatto. Fantastico, grazie davvero Marta Panini, complimenti ancora per questa bella lettera. ginnasticaritmicaitaliana.it è il sito per chi volesse più informazioni. 150 secondi, ricordiamo invece, è il titolo del blog di Marta. Ciao Marta, buon 2018. Assolutamente, grazie a voi. Grazie ciao, Marta, ciao. Buon anno. Noi ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Ancora buona domenica da Federico Taddi e Matteo Bussola. Questa è l'ultima puntata dell'anno dei Padri Eterni, una puntata che guarda indietro e che guarda avanti, una puntata di bilancio, una puntata di buoni propositi. Radio24.it è come sempre l'indirizzo del nostro sito, da lì potrete scaricare tutte le puntate dell'anno e non solo, da lì anche potrete inviarci messaggi, cosa che potete fare anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Facebook. Continuiamo con i buoni propositi. Adesso parleremo di dolcezza e di gentilezza. Sii dolce con me. Maneggiami con cura. Abbi la cautela dei cristalli con me e anche con te. Quello che siamo è prezioso, più dell'opera blindata nei sotterranei. È affettivo. È fragile. La vita ha bisogno di un corpo per essere, e tu sii dolce con ogni corpo. Siate ribelli, praticate gentilezza. Questo è il titolo di un libro scritto da Saverio Tommasi, lo abbiamo introdotto con questa bellissima poesia di Mariangela Gualtieri. Siate ribelli, praticate gentilezza. Tu e le tue figlie, la si insegna la gentilezza? La si insegna, è come se la si insegna. E io in questo sono assolutamente d'accordo con Saverio, cioè la gentilezza è la vera grande rivoluzione della nostra epoca, secondo me. Saverio Tommasi, scrittore e giornalista, a cui diamo il benvenuto. Ciao Saverio, buona domenica. Ciao, buongiorno, buona domenica a voi, grazie. Ciao Saverio. Allora, ribelli e gentilezza sembra quasi un ossimoro, non lo è di fatto, però insomma c'è un bel contrasto. Da dove nasce questa idea di insegnare la gentilezza? Di provare a divertirsi. L'idea mia era questa, e per divertirsi, diciamo, oltre la semplice, diciamo, seppur importante risata, c'è la possibilità di provare a interagire con gli altri. E allora una delle modalità forse migliori per interagire con gli altri è, secondo me, provare ad essere gentili, a praticare questa gentilezza, che è una prova e un tentativo anche per me, che però provo a raccontare alle figlie. Infatti il tuo è un racconto, una lettera che scrivi alle tue due figlie, Caterina e Margherita, una sorta di confessione a penna aperta, diciamo, ecco. Sì, tant'è che non mi sono mica divertito tanto io a scriverlo, nel senso che ho scavato dentro, ho tolto pezzettini di me che pensavo stessero invece bene abbastanza sepolti, invece mi sono torturato felicemente per tirarli fuori e raccontarli a loro come gancio. Diciamo che le figlie sono un gancio meraviglioso, ma rimangono una modalità per raccontare delle storie che spero poi loro in qualche modo comunque incroceranno, o almeno ne sentiranno i profumi, e poi loro decideranno come e se utilizzarle nella loro di vita, declinandole come preferiscono. Saverio, ma anche Matteo, raccontare così la propria quotidianità è veramente un un abbandonare le proprie difese? Lo è, ci vuole molto coraggio per farlo, infatti, ci vuole molto coraggio per farlo anche in rete, in questi tempi di haters, di persone, no, che sono sempre pronte ad accusarti o a gettare fango sulle cose e sulle parti di te che decidi di mostrare. Ora, il punto che cos'è? Che nel momento in cui tu sei sui social, quindi in un luogo in cui se lo usi bene puoi costruire relazioni, conviene sempre mettersi in gioco, secondo me. Non a caso Saverio ed io condividiamo questo destino di essere spesso accusati, no, di buonismo, no Saverio, ecco, che è una parola ormai svuotata da qualunque significato. Io credo che lui sia d'accordo con me quando dico che, insomma, se l'alternativa è il cattivismo, questo cinismo a tutti i costi che ormai è dilagante, la scelta è abbastanza semplice. Sì, allora in quel caso ci prendiamo anche quella parola inventata che è buonismo, se l'alternativa è l'altra. Insomma, questo è il buonismo che poi un attimo dopo vi porta ad essere etichettati come mammi. Vabbè, sì, allora, perché adesso abbandono lo studio. No? L'etichetta è sempre, diciamo, il primo passo di chi non ha voglia di provare a immergersi nelle storie, nella propria o nelle storie degli altri, provando nelle storie degli altri a riconoscere magari un pezzettino della propria. E allora è sempre più facile usare delle parole che poi sono, diciamo, uno stereotipo, una maniera per facilitare, banalizzare e fondamentalmente però non raccontare alla fin dei giorni. A me piace molto questa cosa che scrive Saverio, no? Quando dice alle sue figlie: crescete pure ma rimanete piccole, che anche questo sembra un ossimoro. In realtà ci dice proprio che il processo di crescita non è solo qualcosa in cui si guadagna, ma è soprattutto qualcosa in cui devi stare attento a non perdere. Non perdere quello sguardo lì e quell'attitudine lì al mondo, forse è una delle chiavi principali della gentilezza di cui Saverio ci parla. Che poi gentilezza che io sto pensando adesso ai miei figli, quindi un po' più grandicelli, no? E sto ripensando anche alla poesia della Gualtieri. Cioè, insegnare la gentilezza vuol dire poi insegnare il rispetto per l'altro, il rispetto per il corpo, la cura per il corpo, per il proprio e per quello delle persone che ti circondano, no? E questa parola gentilezza raramente poi è abbinata al papà, cioè sembra quasi una cosa che debba insegnare la mamma. È la cosa che stavamo dicendo prima, no? Ci sono dei pregiudizi anche qui, ci sono degli stereotipi anche qui. Sembra che la gentilezza, la presenza, la cura siano qualità che non possono essere attribuite a noi uomini o a noi padri, tant'è che quando le applichiamo veniamo declinati al femminile anche noi, i mammi, ben dicevi prima. Ecco, queste cose sono delle sciocchezze che sarebbe anche ora che lasciassimo perdere. Mentre poi insegnare la gentilezza, no, dicevate, è una delle questioni più belle in assoluto, perché per insegnarla soprattutto bisogna praticarla e non utilizzare, diciamo, una cattedra, una lavagna, pure importanti per altri tipi di insegnamenti, anzi direi fondamentali. Però per insegnare la gentilezza l'unica maniera, o comunque la migliore, è proprio essere gentili a propria volta, e sì che è anche una modalità di insegnamento che ti butta in quel grande calderone o casino che è la vita. Ed è straordinario, perché in questo modo la gentilezza non diventa un proposito ma diviene una pratica. Ecco, così, esatto, abbiamo risolto, bravissimo, anche il problema dei buoni propositi. Siate ribelli, praticate gentilezza. Questo è il titolo del libro di Saverio Tommasi. Grazie Saverio, buon anno. Grazie a voi, buon anno, un abbraccio. Insomma, verso la fine dell'anno ci sono anche le immagini che sono uno dei simboli del periodo, no? Si riguardano un po' le fotografie dell'anno, quelli che sono stati gli scatti più salienti. Ci sono i calendari, perché appunto esplode, no? in questo periodo. Beh, vi vogliamo invece parlare di una mostra fotografica che è stata inaugurata un paio di settimane fa, il 15 di dicembre, ma rimarrà aperta ancora per un po' presso il Polo Museale di Trani, una mostra che si intitola My Father's Job. Il fotografo si chiama Claudio Ladisa e ha scattato immagini di padri e figli al lavoro, di una semplicità estrema. Sono questi scatti veramente di sana quotidianità, dove lo stesso lavoro lo stanno facendo il padre e il figlio. Diamo il benvenuto a Claudio, qui con noi a Padre Eterni. Ciao Claudio. Ciao, buona domenica. Ciao Claudio. Ciao, ciao. Allora, come ti è venuta l'idea? L'idea è nata quasi per caso, dopo un brutto episodio, diciamo, una tentata estorsione ai danni di due miei amici, padre e figlio, che gestiscono una ferramenta. Insomma, sono stati esplosi dei colpi di pistola e loro sono stati colpiti alle gambe. Dopo qualche giorno li ho rivisti fare l'iter di aprire la serranda, tirare fuori, diciamo, i loro gesti, e da lì è nata l'idea. Mm-hmm. E, dicevo prima, ho usato la parola semplice perché sì, è proprio, no, sono sguardi spontanei quelli che hai, che sì, hai catturato. Ho semplicemente chiesto loro di stare non in posa, ma di fronte a me, e sono tutte figure intere, quindi si vede esattamente, diciamo, il posto in cui lavorano e così come sono vestiti, diciamo, è nella loro naturalezza. Ma trovo particolarmente significativo la cosa che ha detto prima Claudio, il fatto di non conoscere del tutto, quantomeno, le storie delle persone che ha fotografato, che è la maniera migliore per raccontare una storia, perché c'è il puro sguardo che accoglie questa immagine. E le foto, devo dire, sono molto belle, perché proprio si riconosce nel figlio il viso del padre e viceversa. E in un'epoca in cui poi molti fotografi, per esempio, si occupano di fotografare, per esempio, i figli, uno su tutti mi viene in mente Alain Laboile, che è un fotografo francese molto famoso, l'idea di invece di fotografare la paternità, cioè proprio il padre e i figli insieme, la trovo molto originale. Claudio, c'è una storia che magari più delle altre ti è rimasta impressa? Una più delle altre, c'è uno storico edicolante della mia città che mi ha raccontato che quando era piccolo lui è figlio di uno dei primi strilloni, no? Quelli che mandavano, che gridavano i titoli dei giornali. Sì. Parliamo del credo del primo dopoguerra. Insomma, lui, quando avevano aperto l'edicola, un fotografo si avvicinò e gli disse: vi posso fotografare a te tuo padre, e lo mandò via. Quindi quando mi ha visto fare la stessa domanda, diciamo, immagina come mi ha accolto. Cioè, lui si è pentito di aver mandato via il vecchio fotografo. Okay. Quindi, insomma, quindi ho capito che questa cosa che stavo facendo ha inorgoglito i padri più che i figli. Sì. Okay. Cioè, sono stati contentissimi. My father's job, cioè, è il lavoro di mio padre, quindi è il figlio che parla, ma lo stesso figlio è lui stesso in qualche modo un lavoro del padre. È vero, certo, certo. È vero. Ma poi in questi occhi, insomma, c'è orgoglio, c'è passione, c'è vitalità, c'è complicità. C'è complicità, sì, cioè, è un legame fortissimo che, mm-hmm, che è evidente, però che spesso noi diamo per scontato. 32 foto, 32 ambienti, 32 professioni, 32 lavori. Credo sia stato. Non è finito, cioè in realtà va avanti. È comunque una fotografia globale anche della tua città, di fatto. Sì. Ma infatti io credo che questo. Spero che rimanga un documento utile nei prossimi decenni. Ricordiamo allora, presso il Polo Museale di Trani, che è il Museo Diocesano e il Museo della Storia della Scrittura Meccanica, questa bella mostra, ve la consigliamo davvero se siete da quelle parti, e poi è comunque bella l'intuizione, bella la suggestione di questi padri, di questi figli e del loro lavoro, una bella immagine di questo 2017. Grazie Claudio, complimenti. Grazie, grazie mille. Grazie buon Claudio, ciao. Buon anno. Ciao, ciao. Buon anno, buon anno. Padri Eterni. Ancora Padri Eterni, ci avviamo verso la conclusione di questa puntata, che vuol dire che si avvicina poi il momento della mezzanotte, lo sai, Matteo. Che però dai, è un po' una notte magica, no? Sì. Ma guarda, notte magica, se vuoi ti dico com'è andata l'anno scorso. Sì. L'anno scorso, l'ultimo dell'anno, l'abbiamo svoltata con un virus intestinale condiviso da tutta la famiglia. Programmato? No, li ho sbagliato io, perché nella lettera a Babbo Natale avevo chiesto maggiore liquidità. Sì, okay. E mi sa che mi ha capito male. Ecco. Comunque andrà a finire come sempre, insomma, con le bambine che tireranno la mezzanotte, io mi addormenterò sbavando con un mezzo bicchiere di spumante sul letto e la mia compagna posterà foto a tradimento di me su Facebook con un maglione a rombi e una coperta a quadri. Dai, però un momento, sai, forse sono delle poche notte dove comunque le bambine e i bambini sono autorizzati ad aspettare la mezzanotte, quindi c'è comunque un bel elemento. Sì, ma certo, ma infatti sono autorizzati ad aspettare la mezzanotte vedendo i genitori sfiancati che dormono. E vabbè, questo è Capodanno a casa Bussola, ma insomma sappiamo che tutto ciò ci verrà ben raccontato su Facebook, quindi ti seguiremo assolutamente. Adesso invece andiamo a ripercorrere l'anno, lo facciamo scegliendo alcune parole particolari, parole che magari abbiamo sentito echeggiare nel 2017, e lo facciamo con lui. La voce l'avete riconosciuta, è quella di Gene Gnocchi, che è qua con noi. Ciao Gene, buona domenica. Ciao Federico, ciao a tutti. Ciao Gene. Allora, Gene Gnocchi, con il suo Petauro dello Zucchero, il nuovo libro edito con La Nave di Teseo, ha fatto una sorta di dizionario. Sono veramente tante parole dove si ride di noi, si ride dell'attualità, si ride della contemporaneità. Gli ho chiesto così di scegliere alcune parole che un papà potrebbe utilizzare appunto per raccontare il 2017 al proprio figlio. Tra l'altro, Gene, tu sei un super papà. Io ho 5 figli, cavo mio Federico, quindi sono navigato. Gene, fermati. Sì. Quindi... ma non ci penso neanche, vado avanti fino allo sfinimento. Ma infatti, guarda, la domanda sarebbe, insomma, come fai a scrivere? Cioè, ti chiudi dove? Perché, No, io scrivo sempre in mezzo alla confusione, è la cosa migliore. Sì, con i figli, sì, sì. Sì, assolutamente. Condivido questo punto di vista. La differenza, Gene, in realtà, tra essere scrittori prima di diventare padri e dopo, è che quando sei scrittore dopo, non necessariamente la mano che digita sui tasti è la tua. Non so se anche per te è così. Vero. Succede anche quello. Allora, Gene, hai scelto alcune parole così da padre a figlio? Ma la prima che avevo scelto era acne, perché ho avuto il problema dei figli sempre con l'acne, e quindi giusto. È una parola che da padre a figlio per i figli è sempre un problema, e quindi bisogna dare dei suggerimenti, essere padri presenti per l'acne. Che acne che tu hai descritto, come, cos'è l'acne? Ma l'acne, io ho detto, è una malattia della pelle che colpisce gli adolescenti, si può curare con un creme oppure aspettando che passi l'adolescenza. Oppure uno è stato a casa da scuola per 4 anni e sulla giustificazione c'era scritto acne. No, però effettivamente è così, in effetti poi l'acne ti viene a bruciapelo, a tradimento, tu il giorno prima non l'avevi, e però si cura anche non trastullandosi nell'adolescenza. Io quindi ai miei due figli giovani che ho, perché gli altri sono grandi, ho detto di impiegarsi subito, di trovare subito un lavoro, siccome adesso è molto facile trovare un lavoro rapidamente. Sì, infatti. Perché di lavoro ce n'è molto. Bravo, sì. Sì, sono avvantaggiati. Ecco. Ok. Una seconda parola invece, dopo acne. La seconda parola era bonus bebè. Ah beh, certo, questo è da... Bonus bebè, perché chiaramente avendo figli il bonus bebè è una condizione che ci tocca, quindi io bonus bebè l'ho descritto così. Il bonus bebè consiste in questo: se fai un figlio entro l'anno ti danno sua sorella in omaggio. Questo è sostanzialmente... Da ottobre può chiedere il bonus bebè anche chi possiede un Tamagotchi. Perfetto. E poi il bonus bebè si può chiedere anche per figli adottati a distanza, purché la distanza sia inferiore ai 7 chilometri, perché il bonus bebè è chiaramente un aspetto che ha toccato tutte le famiglie, quindi bonus, sì, bebè, devi comunque farne. C'è gente che si è arricchita col bonus bebè, gente che ha fatto 300 figli pensando che con 300 bonus bebè potesse svangarsela. Non era esattamente così. Assolutamente. Sì. La terza parola invece per raccontare questo 2017. La terza parola è curling, in realtà, perché il curling è stata la sorpresa, perché noi col curling andremo, con la squadra di curling andremo ai mondiali. È vero. Mentre invece con alle Olimpiadi, forse, alle Olimpiadi. Sì, alle Olimpiadi, scusa. Mentre invece con la nazionale di calcio non andremo ai mondiali, quindi sì. Il curling per me è la riscossa dello sport povero, ecco. Ho scritto che il curling in Angola non è lo sport nazionale, né si avvia ad esserlo. Sì, un uomo con una scopa in mano, o è lui che fa i lavori di casa o sta uscendo per andare a giocare a curling. Perfetto. Perché il curling, e alcune squadre di curling si sciolgono sul campo. Perché il curling è così, fatto così. Invece ti suggerisco io una parola, pensando anche ai giovani genitori, ed sì, è apericena, questo termine spaventoso. Sì, è spaventoso, veramente, guarda, mi cogli un po', sono sulla tua lunghezza d'onda, perché apericena, tra l'altro io nel libro apericena l'ho messo come una diciamo un lemma focale, e sono scritto che per essere considerato apericena l'apporto calorico deve superare al netto degli alcolici le 4000 calorie, se no o è l'uno o è l'altro, cioè o è aperitivo o è cena. Giusto. L'apericena, avevo scritto una cosa secondo me interessante, che per apericena si intende un aperitivo che si sostituisce alla cena, mentre non è dato il contrario, anche perché cena peri sarebbe dal punto di vista linguistico il punto di non ritorno. Alcuni locali per l'ultimo dell'anno fanno l'apericenone, ma hanno l'obbligo del defibrillatore. Ma io, guarda, questo libro è delizioso secondo me, perché a parte che poi tu lo definisci, no, questo vocabolario alternativo per non diventare come quello là, e sì, quello là naturalmente ognuno può decidere chi sia. Io ho un sospetto, ma insomma lasciamo la libertà di decidere. Dillo che sospetto hai. Ma il mio sospetto è che quello là poi sia come diventiamo noi quando non ci piacciamo, no? Forse sia come diventiamo noi quando diventiamo adulti. Forse è un modo anche per restare un po' bambini, con questo sguardo un po' obliquo e più vero sul mondo, credo, non lo so. No, in realtà quello là eri tu. Ecco, esattamente. Comunque, no, guarda, io ho adorato questa cosa perché contiene delle piccole perle di verità. Ci sono le meduse, è la scusa più usata per non far fare il bagno ai bambini: dopo, se fai il bagno, t'ammazzo. Questa cosa è verissima. Mi sembra sì, ottimo. È vero, questo perché è vero. Ci sono anche delle cose vere, in effetti. C'è anche di inventato, però ci sono anche cose vere. Gene, un'ultima domanda, ma sì, a proposito di padri, per un comico quest'anno è stato il padre della Boschi, direi, il padre più amato, no? Beh, direi di sì, se non ci fosse stato il padre della Boschi e Banca Etruria, caro Federico, avremmo avuto molto meno materiale, fortunatamente. Il problema è che purtroppo in questo caso le colpe dei padri cadono sui figli, è un detto che questa volta è stato assolutamente così. Confermato. Gene Gnocchi, il petauro dello zucchero, dizionario essenziale per non diventare come quello là, la nave di Teseo. Grazie Gene, buon anno, buon 2018. Grazie a voi, un abbraccio, buon anno. Ciao Gene, ciao, buon ciao. Anno. Ciao, ciao, ciao. È il momento dei saluti, un grazie a Paolo Corleone oggi alla parte tecnica, un grazie a Valentina Ternullo che con noi ha scritto la puntata, un grazie a voi per essere stati in nostra compagnia non solo oggi ma per tutto l'anno, possiamo dirle, quindi insomma cogliamo davvero l'occasione per augurarvi un bellissimo 2018. Matteo, è l'ultima lettera dell'anno? Per chi è? È l'ultima lettera dell'anno e quindi proprio per questa ragione l'abbiamo scritta all'anno nuovo. Grande, auguri. Auguri. Lettera aperta al 2018. Caro 2018, ci risiamo. Di nuovo con la storia dei propositi che poi ci fanno sempre sentire in colpa perché non riusciamo quasi mai a mantenerli. Facciamo che stavolta, da te, non ci aspettiamo niente. Perché le aspettative sono la maniera migliore per rovinare le sorprese, ovvero quel che la vita ha in serbo per noi proprio quando non lo sappiamo. Quelle robe che quando arrivano dici: chi? Io? Con lo sguardo di un pinguino in una pescheria. Ecco, quello sguardo lì ci terrei a difenderlo, lo voglio uguale sempre e per sempre, anche di fronte agli squali o alle onde più alte, che i pinguini sono i migliori nuotatori soprattutto nel cuore della tempesta. Per il resto, di poche cose sono sicuro. E non te le chiedo perché so che dipenderanno solo da me. Vorrei avere sempre gli occhi aperti, soprattutto quando sono chiusi, riuscire a leggere poco ma bene, giocare piano, amare forte, ascoltare meglio le mie figlie, andare a trovare più spesso i miei genitori che passavo di qua, anche se stanno a un'ora e mezza di macchina, imparare da tutti, soprattutto ricordarsi di partire sempre dagli altri. Partire dagli altri non significa affatto sacrificarsi o rinunciare a se stessi. Il bello infatti è che a noi stessi si arriva comunque e sempre, solo ci si arriva facendo il giro più largo. È come arrivare in Francia in auto passando dalla Svizzera, anziché prendere un aereo e andarci e basta. La cosa ha due vantaggi, facciamo tre. Che in questo modo il viaggio sarà più ricco e lungo, che arrivare in Francia dalla Svizzera è molto più bello, che quando arrivi in Francia avrai visto anche la Svizzera, che è incantevole, e in questo modo, pare strano, capirai meglio pure la Francia. In sintesi, per questo 2018 auguriamo a tutti viaggi più lunghi e più lenti e, dovunque vogliate andare e nel dubbio, di passare sempre prima dalla Svizzera.